questo mondo che non puoi capire, ci sono maschere che non puoi vedere, ci sono sintomi di gloria, incubi, inganni della gioia, esodi e fughe dalla vita, su marinelli e questa strada, musica e suoni dalla terra, e la tua pelle è sempre quella, sempre quella. Angeli bianchi, angeli neri, la notte è fatta di sedere, tracce d'inferno e paradiso, schegge di luce sul tuo viso, sul tuo viso. Sia benedetto questo incontro.